devo attaccare. Certo che è un passaggio abbastanza azzardato. E come inizio, sì, qualcuno potrebbe restare un po' traumatizzato a livello musicale. Forse si sentiva fischiettare, sicuramente non si vedeva ballare, ma il pezzo di prima mi dà una carica allucinante. Finalmente torna God Save the Queen con una terza puntata piena di storie che nessuno mai vi avrà raccontato e mai vi racconterà qui dalla più grande metropoli europea. Mi scuso per il ritardo di questo terzo episodio, ma una serie di circostanze mi hanno reso impossibilitato nel catturare fatti e episodi, così da confezionarli e mandarveli in questo contenitore, fatto anche di tanta buona musica, avete appena sentito. Londra si prepara per il prossimo fine mese ad ospitare l'evento sportivo più importante della stagione, le Olimpiadi, e queste Olimpiadi che porteranno altre migliaia di persone a visitare questa meravigliosa e controversa città e faranno soprattutto la gioia di sponsor, etichette e sfruttamenti vari nel continente asiatico. Ci sarà tempo per parlare di questo nei prossimi appuntamenti comunque, a proposito di Olimpiadi. Oggi, come avevo anticipato sulla pagina Facebook e alle mie care confidenti mura domestiche, la puntata sarà incentrata totalmente sulla cosa più bella che madre natura abbia realizzato, e sto parlando delle donne, le donne che si amino o si odino. Questa donna, questa meraviglia fatta non solo di tette e culi o di smalto e fondotinta, cari miei maniaci, ma soprattutto di cervello e di rivolta, molta più di quanta se ne addica a noi maschietti che siamo e rimarremo sempre sotto schiaffo delle nostre amate signore mamma, compagne, sorelle o amiche. Again, one of my funny days. Non a caso l'ho puntata, l'ho iniziata con un pezzo che adoro, come già avevo anticipato, e meno male che non mi avete visto ballare. È il mio pezzo Northern Soul preferito, quello di Deva Barnes, che non sa di niente per quanto concerne il femminismo, ma dà prova di quanto siano state importanti le donne anche attraverso uno dei generi musicali più importanti e fenomenali, più fondamentali, per non ripetermi con le parole, fondamentali e fenomenali d'oltre manica. Io mi auguro conosciate il Northern Soul, perché come disse, mi disse un venditore di vinili e mercatini di Brick Lane, il Northern è la migliore musica per ballare. E nel frattempo accontentava la mia richiesta, addirittura scomodando dal rettore CD un'altra icona delle nostre vite contemporanee, un certo Morrissey. Io e l'allegra brigata cosentina, che in quei giorni ha allietato un weekend stranamente caldo di febbraio, siamo stati ultra felici. Ma parliamo di donne, appunto, e di una in particolare. E questa donna è Mary Wollstonecraft, filosofa e scrittrice inglese, considerata colei che ha fondato il movimento femminista. La chiameremo confidenzialmente Mary, anche perché ho paura di sbagliare la pronuncia del cognome. E sì, non mi viene tanto facile, è un cognome abbastanza difficile, non si chiama Smith. Quindi durante questa puntata la chiameremo soltanto Mary, alla faccia soprattutto di quella befana che sì, pur donna è, ma è una befana vivente che ha compiuto 60 anni di regno e che sa poggi a fangolo e cavo scattà sia lei che i suoi sudditi. Penso abbiate capito l'inflessione dialettale dove voglio cogliere. Sempre nelle corna maledette della regina Elisabetta, ha soprattutto anche dei suoi numerosi adepti. Talk now, baby. Ho conosciuto Mary ovviamente da storie e dai suoi scritti, ma non ero consapevole di una cosa fondamentale, che fosse nata in un quartiere vicino a dove abito e che si trova sulla strada che quotidianamente faccio in autobus per raggiungere il mio luogo di schiavitù giornaliera. Mary ha avuto una vita breve, morì a soli 38 anni e mi va di dirlo subito perché il solco che ha tracciato è stato abbastanza lungo, tale da lasciare nei secoli un'impronta fondamentale sui vari movimenti femministi nati soprattutto nel 1900. Mary nasce a Londra il 27 aprile del 1759 e trascorre una vita abbastanza tormentata, soprattutto nell'adolescenza, tra povertà e fame. Ma ciò le dà la forza di autodeterminarsi e di compiere le sue esperienze da autodidatta, quindi anche un buon esempio di do it yourself, tanto poi sviluppatosi in Inghilterra a cavallo degli anni 60 e 70 dello scorso secolo, di cui io sono follemente pazzo. Di certo nella sua vita una grande importanza ebbe William Goldwyn, anche questo mi va di precisarlo all'inizio, precursore dell'anarchismo e che probabilmente, oltre ad una chiara sintesi d'amore, riusciva anche ad offrire nel poco periodo trascorso insieme una buona dose di ribellione sociale, fatta di filosofie e teorie allora, in quei tempi, davvero messi al bando e impensabili per la morale comune. Beh, l'amore, come si sa, genera passione e da tanta passione, appunto, questo connubio di due corpi che si inerpicano e si stringono in calorosi momenti di effusione e d'affetto, escono anche delle bellissime creature chiamate figli. E mi va di portare un passo che ho letto su proprio facendo una ricerca e sulla quale mi hanno spinto anche delle persone che adesso curano una scuola a nome di Mary lì a Newington Green, e questo pezzo recita così, lo ho appena evidenziato: chiedete a qualcuno se il cattivo era il dottor Jekyll o Mr. Hyde, 9 su 10 diranno Jekyll, che invece era la metà tranquilla. Chiedete a qualcuno chi era Frankenstein, 9 su 10 diranno che era il mostruoso uomo artificiale, invece era lo scienziato che lo aveva fabbricato. Gli informati sanno che è il protagonista di un romanzo e i più informati sanno pure che fu scritto da Mary Shelley. Ma il cognome della scrittrice era quello del marito, perché Mary era nata Wollstonecraft. Alcuni sono conosciuti come figlio o figlia di, altri come padre o madre di. Qui è il primo caso, e questa Mary era nata figlia di un'altra Mary Wollstonecraft, che assai meno nota, se ricordata, lo è come la madre di Mary Shelley, la moglie del poeta. La scrittrice si chiamò Mary perché la madre, dopo il parto, morì di setticemia. Si può pensare quindi a una continuità transgenerazionale, per cui la fama della figlia richiama l'attenzione sulla madre, che fu brillante e battagliera. Quindi in molti, magari, se ancora non hanno capito di chi stiamo parlando, di Mary Wollstonecraft, di questa donna che fu appunto primo esempio di femminismo attraverso di difesa dei diritti delle donne attraverso i suoi scritti, Mary passò più famosa la figlia, per la quale poi morì per le conseguenze del parto. Tornando a Mary, poco più che ventenne lasciò la casa paterna per guadagnarsi da vivere. Si divenne assai colta e fu pensatrice e scrittrice, non fu attraverso la scuola ma grazie alla sua volontà e ad amicizie colte, come già abbiamo ricordato sul discorso del do it yourself. Queste amiche in particolare erano una certa Jane Arden, che Mary conobbe quando abitava ancora nello Yorkshire, e Fanny Blood, conosciuta quando Mary era tornata a vivere a Londra attraverso una famiglia, i cosiddetti Clarks, che erano una coppia di Hoxton che assunsero quasi il ruolo di genitori per Mary. La sua formazione un po' accidentata non fu affatto carente, i suoi scritti mostrano padronanza della Bibbia, conoscenza dei classici di Shakespeare e di Milton. Tuttavia per la sua posizione sociale le sue prospettive apparivano limitate, al più avrebbe potuto diventare per quei tempi governante o maestra di scuola. Infatti fu poi lei stessa con le sue sorelle ed un'amica ad aprire una scuola nel 1768 per guadagnarsi da vivere E addirittura poi ricoprì anche il ruolo di governante in Irlanda. Va ricordato che era una critica acuta e una buona traduttrice, e queste due competenze la fecero conoscere pensatori come Leibniz e anche Kant. Tradusse molti libri ogni volta che ogni volta apparivano anche come propri, sia perché concordava con gli autori, sia perché in sostanza poi li riscriveva. Nel 1787 cominciò a collaborare con la rivista Analytical Review e a frequentare il circolo di intellettuali dell'editore Johnson, che comprendeva anche personaggi del calibro di William Blake. A quell'anno risale il suo primo scritto, si tratta di Thoughts on the Education of Daughters, with Reflection on Female Conduct in the More Important Duties of Life. Pensieri sull'educazione delle figlie con riflessioni sul comportamento delle donne nei doveri più importanti della vita. Questo libro, pubblicato dall'amico editore Johnson, è un primo abbozzo del suo futuro e più importante libro, Vindication of the Rights of Woman. È un manuale di comportamento che dà consigli sull'educazione femminile, indirizzati in particolare all'emergente classe media. E benché prevalgano questioni di moralità e galateo, contiene istruzioni di base per l'educazione delle bambine, fino alle cure da riservare ai neonati. L'autrice aveva osservato attentamente le allieve della sua scuola e voleva fornire le proprie idee sull'educazione delle donne, che a suo avviso non avevano inferiori qualità di apprendimento rispetto agli uomini. Un suo celebre aforisma dice che chi ha reso l'uomo il giudice esclusivo se la donna condivide con lui il dono della ragione? Pensava che tutto cominciasse con l'educazione, che la ragione dell'assoggettamento delle donne fosse da ricercare nell'ignoranza e nella condizione di esclusione della civitas. A Parigi, nel fervore della rivoluzione, Condorcet aveva pubblicato un elogio dell'istruzione pubblica, dove affermava che provvedere all'istruzione è dovere dello Stato, il quale però non può imporre le proprie regole all'educazione. Che Mary Wollstonecraft, molto attenta alla rivoluzione dell'89, ne avesse avuto conoscenza è verosimile. Nel 1792, forte della convinzione che l'educazione fosse fondamentale per la liberazione delle donne, pubblicò il già detto Vindication of the Rights of Woman, Rivendicazione dei diritti della donna, appunto l'opera più importante della sua carriera letteraria. Questa sua importante realizzazione è centrata sulla critica al sistema educativo dell'epoca, che trascurava le donne e impiegava modalità inadeguate. Se le donne non sono uno sciame di frivole femmine, perché tenerle in un'ignoranza camuffata da innocenza? Gli uomini si lamentano, a buon diritto, delle follie e dei capricci del gentil sesso, e fanno dei nostri vizi abietti e delle nostre passioni ostinate oggetto di satira pungente. Osservate, rispondo io, la natura conseguenza dell'ignoranza. L'intelletto, che può fondare le sue basi solo sui pregiudizi, sarà sempre instabile, e la corrente procederà con furia distruttiva se non vi sono barriere a frenare la forza. Chiara anche l'importanza civile e politica dell'istruzione come diritto primario ed essenziale, al punto di contestare duramente anche Rousseau. Tanto solido era l'ingegno di Jean-Jacques Rousseau che se lo contendono filosofi, sociologi, politologi e pedagogisti. La sua moralità, per contro, era alquanto pieghevole. Infatti è noto che abbandonò all'assistenza pubblica la sua prole. Ma malgrado questo, o forse proprio per questo, moraleggia su doveri e diritti. Nell'Emile, l'Emilio di Rousseau, attribuisce alla donna il ruolo di madre e nutrice. Ruolo nobilissimo, ovviamente, a giudizio del filosofo. Ma guai alle donne che non erano degne di tale ruolo, come quelle che non allattavano i figli, affidandole alle nutrici. A quelle donne non basta, sbarazzatesi dei figli, abbandonarsi felici ai divertimenti. Ormai non vogliono neppure metterne al mondo. Quindi la dipendenza di giudizio di Mary Wollstonecraft è assoluta. L'ammirazione per Rousseau non impedisce di dare un giudizio severo sulla sua teoria dell'educazione, che non usa mezzi termini. Le considerazioni di Rousseau, secondo cui le donne sono naturalmente interessate a bambole, vestiti, e conversazioni del tutto indipendentemente dall'educazione sono talmente puerili da non meritare neppure di essere seriamente computati. Il sistema educativo in voga si basava sui libri scritti da uomini che consideravano la donna non come semplice essere umano, ma come femmina subordinata, cui doveva essere inculcato il dovere di essere gentile, educata, obbediente, decorosa e ovviamente bella, al fine di poter trovare un marito che la sistemi. Quante volte abbiamo sentito questi discorsi? Le donne quindi venivano trattate come un animale domestico e tenute in una perpetua fanciullezza. Il ragionamento della scrittrice in merito è piuttosto semplice, poiché si ritiene la donna dotata di virtù inferiori all'uomo. Se l'educazione di entrambi avessero seguito gli stessi metodi e principi, le donne sarebbero giunte dove di norma giungevano gli uomini. Succedeva pure che una donna di interessi e virtù elevate venisse definita con disprezzo mascolina. Ma Mary nota che non era affatto strano che molte donne avessero più buon senso dei loro coniugi. Se le donne sono per natura inferiori all'uomo, le loro virtù devono essere le stesse in termini di qualità, se non di grado, altrimenti la virtù stessa diviene un concetto relativo. Di conseguenza la loro condotta dovrebbe fondarsi sugli stessi principi e avere gli stessi fini. Quasi tutti i pedagogisti sono concordi nell'osannare l'Émile come vetta della riflessione pedagogica. Forse è vero che lo sia, però in negativo, in quanto è il sommo esempio di ciò che, anche se fosse praticabile, non si può proporre come modello, in quanto si elimina radicalmente la dimensione della socialità ed Emilio cresce avendo come unico interlocutore il precettore. E comunque, se quello schema richiede un educatore per ciascun educando, non sarebbe certo replicabile. Thank you. Come Mary scriverà nella sua Vindication, Rousseau non concepiva che una donna possa essere indipendente, potesse essere indipendente, ma pretendeva di trasformarla in una schiava tutta civetteria per diventare un più seducente oggetto di desiderio, una compagna più dolce per l'uomo ogni volta che questi desideri svagarsi. Si spinge addirittura ad affermare che la verità e la forza d'animo, le pietre angolari di ogni virtù umana, dovrebbero essere coltivate entro certi limiti, perché per ciò che concerne il carattere femminile, la virtù più importante è l'ubbidienza. Oh, che sciocchezza, è una grandissima sciocchezza. Io non posso che essere d'accordo. Mary ancora apre sulla sua Vindication of the Rights of Woman, al capitolo 12, intitolato On National Education, in questo modo. Un uomo non può ritirarsi nel deserto col suo bambino e anche se lo facesse non potrebbe riportarsi indietro alla propria infanzia e diventare l'amichetto e il compagno di giochi di un bambino o un ragazzino. Quando i bambini sono confinati nella società degli uomini e delle donne, ben presto acquistano quella specie di condizione adulta prematura che blocca la crescita di ogni vigore della mente e del corpo. Per sviluppare le loro facoltà dovrebbero essere sollecitati a pensare da sé. Ciò si può fare solamente mescolando insieme un certo numero di bambini per farli esercitare verso gli stessi obiettivi. Un bambino cade presto in una sorta di torpida indolenza mentale e di rado avrà poi il vigore sufficiente a liberarsene. Quando sta solo a far domande invece che a caccia di informazioni e allora implicitamente si adagia sulle risposte che riceve. Con i coetanei non potrebbe succedere e gli oggetti di indagine, benché possano essere orientati, non sarebbero totalmente diretti da persone che frequentemente soffocano, se non distruggono le capacità, forzandola ad emergere troppo in fretta. E sarebbero senz'altro spinte troppo in fretta se il bambino fosse vincolato al rapporto con una sola persona, per quanto sagace possa essere. Una forte coscienza sull'idea di educazione e sulla critica alla visione comune dei tempi, a partire, come già detto, dall'osannato anche dalla stessa Mary, Jean-Jacques Rousseau. C'è da dire che il Vindication of the Rights of Woman fu preceduto l'anno prima dal Vindication of the Rights Man, in risposta al connazionale Edmund Burke che nel 1790 diede alle stampe le sue critiche, dal titolo Reflection on the Revolution in France, basate sull'ostilità al vento rivoluzionario francese che spirava anche in Inghilterra, visto che Burke era vicino agli ambienti conservativi o conservatori britannici. Mary sperava che di questi diritti, quelli appunto scritti nel Vindication of the Right Man, avessero potuto godere anche le donne. Mary era una donna avanti nei tempi, viveva i suoi mori con tutta se stessa e prima di sposare Goldwyn ebbe una relazione con il pittore Erich Fussli e ebbe anche un'altra relazione con l'avventuriero Gilbert Imlay, con il quale ebbe anche una figlia e al quale diede il nome Fanny, come la sua vecchia amica Fanny Blood, scomparsa qualche anno prima. Quando incontrò Goldwyn era una ragazza madre, quindi ci si può immaginare in quegli anni cosa significasse vivere tale situazione, sia per chi appunto, sia per la donna, ma anche per un uomo il quale voleva avvicinarsi o il quale si innamorava, voleva intraprendere una relazione con tutto lo scenario che ci stava dietro. La cosa non fece affatto tirare indietro, non gliene fregò un emerito cazzo a Goldwyn, che non a caso nel suo scritto Political Justice si era dichiarato favorevole all'abolizione dell'istituto matrimoniale. E si sposarono soltanto per far cessare per quanto possibile tutte le male lingue nei loro confronti. E dopo il matrimonio celebrato tra la coppia e si andarono ad abitare in due case adiacenti in modo da conservare ciascuno la propria indipendenza. E la loro unione purtroppo durò pochi mesi, perché il 30 agosto del 1797 Mary diede alla luce la sua seconda figlia, come abbiamo detto la futura scrittrice, che prese il nome appunto della madre Mary, ma le conseguenze del parto furono fatali alla nostra Wollstonecraft e morì il 10 settembre di setticemia. Il marito scrisse al suo amico Thomas Holcroft: «Credo fermamente che non esistesse una donna uguale a lei al mondo. Eravamo fatti per essere felici e ora non ho la minima speranza di esserlo mai più». Bene, la storia di Mary sembra davvero romanzata in alcuni tratti, ma vive dello spirito, è il caso dirlo, fortemente anarchico di una donna che era avanti nei tempi e che mostrava tutta la sua determinazione e dignità attraverso i suoi scritti, nella possibilità di modificare un sistema sociale prettamente schematizzato sulla posizione dominante maschile. Penso che per qualsiasi donna non sia ancora oggi facile superare alcuni tabù, pregiudizi e pettegolezzi, ma si deve aver coscienza, e spero che questo sia il concetto più chiaro che ho intenzione di far passare in questa terza puntata di God Slave the Queen, ed è che nascere donna vuol dire di per sé nascere rivoluzionari. Forse probabilmente anch'io, se fossi nata donna, il mio percorso esistenziale sarebbe stato probabilmente ancora più difficile, ma sarei stata una donna con i contro coglioni. E Mary subiva quella rappresentazione che Engels diceva nel suo libro L'origine della famiglia e della proprietà privata e dello Stato, e cioè il rovesciamento del matriarcato segnò la sconfitta sul piano storico universale del sesso femminile. L'uomo prese nelle mani anche le redini della casa, la donna fu avvilita, asservita, resa schiava delle sue voglie e semplice strumento per produrre figli. Anche se i periodi erano differenti o erano ma la situazione sociale che stava avvenendo in Europa in quegli anni si può in effetti rappresentare in questa frase di Engels. Per Mary, da un anno a questa parte, dopo il centenario della giornata dedicata alle donne, che dovrebbe essere tutt'altro di quelle giornate passate a guardare spogliarellisti con finte banane nelle mutande, per Mary si stanno raccogliendo firme al fine di poterle dedicare una statua. Per ora, per queste iniziative che trovate comunque facendo un giro su internet, sui vari siti tipo feminist.co.uk, quindi potete trovare tutto quello che riguarda la petizione in favore di Mary. Per ora rimane soltanto è stata una bella iniziativa quella di proiettare lo scorso anno per qualche giorno sulla facciata del House of Commons a Westminster l'immagine di Mary che rifletteva sul Tamigi. Oltre a Mary, mi va di ricordare altre figure importanti che hanno dato tanto al movimento femminista e alle donne, come Walter LeClaire, Emma Goldman o anche qualche icona, come era Rosie Derivettes, ma c'è anche qualche contraddizione in merito sulla storia appunto di questa donna che mostra il suo bicipite e lavorava mentre i propri compagni erano impiegati al fronte, o ricorderei anche le Suffragette o Kate Millett. Ad ogni modo è il caso di citare sempre solo Mary in questa puntata di God Save the Queen. Incentrarla è importante centrarla proprio sulla figura di Mary e a tutte le donne. Ci sono molte citazioni famose di Mary. Io ne ho raccolta qualcuno, la trovate in giro su internet o potrete anche acquistare il libro A Vindication of Rights of Woman. Tra le tante citazioni mi ho raccolta qualcuno e mi va di leggervele. Ahimè, dubito che la pietà e l'amore siano così simili come sostengono i poeti, poiché raramente vedo nascere compassione di fronte alla situazione delle donne, a meno che esse non siano belle. E chi ha reso l'uomo il giudice esclusivo, se la donna condivide con lui il dono della ragione? Desidero esortare le donne a impegnarsi per acquisire forza, sia fisica che mentale, e persuaderle che frasi tenere, animi impressionabili, delicatezza di sentimenti e raffinatezza del gusto sono pressoché sinonimi di debolezza, e coloro che sono semplicemente oggetto di compassione di quel tipo di amore che è stato definito suo parente, diventeranno presto oggetto di disprezzo. è una bellissima. E questa qui che vi vado a leggere. Le donne sono private della capacità di ragionare come i soldati. Ma, amata o trascurata che sia, il suo primo desiderio dovrebbe essere di rendersi rispettabile e non di dipendere per la propria felicità da un essere soggetto alle sue stesse debolezze. E quanto è volgare l'insulto di chi ci raccomanda di diventare solo dei graziosi animaletti domestici. È bellissima questa versione delle Nouvelle Vogue. E a proposito di donna, potevo mettere Dancing with Myself di Billy Idol, molto meglio Nouvelle Vague qui su God Save the Queen. È arrivato il momento di parlare del nostro quartiere londinese e oggi siamo costretti con piacere a parlare di Newington Green, dove Mary visse gran parte della sua esistenza, soprattutto in gioventù. Newington Green non è distante da Stoke Newington, di cui vi ho raccontato la scorsa puntata. Siamo tra i council di Islington e Hackney, e oltre al piccolo pezzo di verde in cui vive il fulcro attivo di Newington Green, da queste parti troviamo il Clissold Park, Finsbury Park e il castello di cui vi avevo parlato la scorsa volta, su cui fare climbing, nonché alcuni bacini artificiali che rendono l'area davvero vivibile e ricca di natura. Insomma, questa è una parte di Londra, siamo rimasti sempre qui vicino casa per ora. Vi invito veramente a visitare questa zona, perché è una zona abbastanza tranquilla e vive di molta contaminazione con le culture straniere ed è soprattutto ricca di parchi, e non mi stancherò mai di dirla. Veramente si può staccare dalla routine quotidiana. La scia del profumo di lamb, non me ne vogliono i vegetariani, lamb è l'agnello, il caro agnello che da queste parti ha fatto una brutta fine. Questo suo meraviglioso profumo prevale anche in quest'area ricca di turchi, ciprioti, di ebrei e ovviamente immancabilmente anche di italiani. Proprio per la quantità di vivibilità degli spazi, grazie alla notevole qualità dei piccoli parchi e aree verde, è il posto migliore in cui famiglie e miliardi di cani possono tranquillamente godere in libertà quelle poche ore di pace, come ho appunto detto, che ci riesce quando si ha la possibilità di ritagliarsi questi spazi appunto in una città caotica come Londra. Oddio, adesso il clima è anche un po' migliorato, non piove da un paio di giorni ed è una notizia, ma a fine maggio presi un bel po' di sole finalmente proprio da quelle parti insieme a una miriade di gente. L'area ha vinto per tale caratteristica, appunto per questa sua vivibilità, il Green Heritage Site Award. E la cosa più interessante sarà forse il fatto che Mary sia vissuta qui e abbia contaminato la zona di visioni rivoluzionarie e controcorrenti. E dico questo perché qualche anno fa, che è la notizia più che mi sta più a cuore di raccontarvi qui a Newington Green, piuttosto che parlarvi sempre di strade, parchi e palazzi. E non voglio sbagliare, ma era il 2008 quando la Newington Green Unitarian Church si rifiutò di celebrare matrimoni fino a quando le coppie omosessuali non sarebbero state in grado di avere, non avessero avuto la possibilità di poter celebrare anch'esse i matrimoni. E questo mi riporta anche a ricordarvi di quanto siano attivi artisti, soprattutto un sacco di gente omosessuale da queste parti. L'altra volta infatti fece bene Pina a richiamarmi, la mia cara amica Pina, perché Stoke Newington e tutta quest'area Newington Green, particolarmente Stoke fino a Hackney, vive di questi artisti un po' emarginati dalle logiche normali della società, perché sono quegli appellativi che a loro piacciono molto, ma la nostra normalità vive anche attraverso queste esperienze, e quindi ben venga l'iniziativa che è stata fatta nel 2008 in questa chiesa, che ha fatto scalpore. Questa notizia andò sulla BBC in prima pagina e fu tra l'altro proprio il parroco Andrew Pacula, che addirittura è di origini americane, è americano ed è cresciuto in una famiglia ebrea a New York, quindi la faccia anche del pluripregiudizio, voglio, che tante volte anche a ognuno di noi ci viene voglia di etichettare, di dire delle fesserie sulle genti, le culture, anche quelle che ci stanno meno simpatiche. Quindi la cosa interessante Tornando a Mary, è che forse in effetti ha dato proprio ha tracciato una linea, come ho detto prima, un solco lungo, a differenza della sua corta età terrena. E magari se fosse vissuta oggi avrebbe potuto scrivere un altro libro, e magari chiamarlo Vindication of Right Gay. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think, oh bondage, up yours, 1, 2, 3, 4. Should be seen and not heard, but I think, oh bondage, up yours, 1, 2, 3, 4. E X-Ray Specs, una bomba di gruppo punk di Leader Front Ladies. A proposito di donne, lo so, mi odierete, ma dobbiamo dare adito anche a alla parte un po' tra virgolette marcia delle donne, ma forse non è colpa loro, ma è colpa di chi dà spazio ad un tipo di donna che sì, magari si vuole anche autodeterminare, ma che vive in una situazione fiabesca, ma è reale allo stesso tempo. Un bell'articolo del Times che ho trovato buttato per strada, e mi dispiace per la strada che debba accogliere anche questo rifiuto quotidiano, narrava della giovane affascinante Kate Middleton, che in una gita a Somerset incontrava dei ragazzini in campeggio e passava la giornata nelle loro tende. Niente di strano, anzi, bello, carino, interessante. Se non fosse per l'articolo che si era chiaramente incentrato, era focalizzato sugli abiti della Kate, comprati qui e lì, e soprattutto sul costo di questi abiti. Ricordo infatti gli stivali in pelle, forse umana. Il coprispalle, il maglioncino, non so di quanti soldi, e concludeva con due sterili righe sulla situazione dei ragazzi che erano al campeggio. L'80% di questi ragazzi di loro veniva da una famiglia in cui nessun componente lavorava. E io direi, vaffanculo tu e quello stempiato i crucazzi, i marito catene, sei un cretino. Calma, calma, persone dei Crass, dobbiamo calmarci, abbasso un attimo il volume, qua come sempre mi perdo e vi ricordo che questa è l'unica trasmissione in cui siete voi a dover aggiustare il volume, avete il vostro mixer personale, la vostra rondellina da abbassare. Dopo lo sfogo nella mia lingua d'origine, il pezzone del Crass, torniamo alle donne fantastiche, al ruolo che oggi in qualche modo vivono nella società contemporanea. Per me, come per tanti amici cresciuti in piccoli paesini di provincia, beh, la donna vive ancora in una doppia veste, quella di sottomessa e quella che sottomette. Ma le generazioni delle nostre madri stanno lasciando spazio alle generazioni che ci appartengono e sono arrivati i nostri tempi, dovremmo essere protagonisti delle nostre vite. Ed è forse più importante interrogarsi appunto su quello che le donne appena laureate o che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro, quelle che vogliono autodeterminarsi, in che condizione sono. Si è fatto un gran frastuono negli scorsi anni sul concetto di quote rosa, io l'ho trovato sempre abbastanza deprimente, sia per quelle donne che lo portavano avanti, sia per l'universo maschile che in qualche modo ci si parava il culo giustificandosi. Io non capisco come si faccia a parlare di eguaglianza tra i sessi dando una percentuale. O meglio, facciamo metà e metà, 50 e 50. L'eguaglianza sta nella possibilità di dare a chiunque la capacità di partecipare senza esclusione di razza, sesso, di idee, religioso, ma... Oddio, non volessi, fossi impossessato di me, in me è entrato nel mio corpo Enrico De Nicola con la Costituzione italiana, ma è davvero ridicolo ancora una volta il modo in cui venga rappresentato il modello paritario in Italia, e voglio parlare appunto dell'Italia, ma è quello anche che succede in tutte le società occidentali. Nelle altre parti è un po' complicato, ci vorrebbero forse 10.000 puntate. Noi siamo dinanzi ad una partita di calcio, nonostante i maledetti europei appunto. Perché per alcuni è proprio una partita di calcio, ma non è che debba finire 1-1, 3-3. Ben vengano i posti in cui comandano, tra virgolette, diciamo solo donne. Qual è il problema? Il problema è fondamentalmente nella società malata, che deve rinnovarsi nelle idee più che nei ricambi generazionali, e che deve superare il concetto gerarchico delle persone che devono in qualche modo decidere per la vita degli altri. Mary sembra essere così lontana nei suoi discorsi, eppure il contesto odierno ricalca bene il periodo in cui lei non aveva altra possibilità che sfogare il suo differente pensiero attraverso gli scritti. Quindi, care donne all'ascolto, spero che abbiate gradito questa puntata specificatamente dedicata a voi, alla vostra bellezza, alla vostra indole ribelle. Io ne ricordo due in particolare, due donne fantastiche: la mia stupenda madre, la donna più rivoluzionaria che abbia mai conosciuto, più forte di ogni male fisico e mentale, non potete capirlo, e la mia compagna che mi sopporta, c'era anche lei nella selezione musicale oggi, quindi ovviamente è anche coautrice e cantante della sigla iniziale, ma sono sicuro che mi amerà ancora di più dopo aver ascoltato questa puntata. D'altronde è un sentimento reciproco, donne, io vi amo, non posso farci niente. E God Save the Queen finisce qui. Un caro abbraccio a tutti i ragazzi della P2 Occupata dell'Unica, che portano avanti tra l'altro il progetto Fuori Onda Radio, dove ascolterete, spero, anche God Save the Queen. Ai miei carissimi amici di Scatacatascia vi anticipo già che l'11 agosto c'è la terza edizione della Festa dei Popoli e siete tutti invitati a Francavilla Marittima. Un abbraccio a tutti gli attivisti che si stanno sbattendo a Cosenza per il parco sociale, e posso mai dimenticare gli Ultra Cosenza. Finisce qui God Save the Queen, ma si chiude con un pezzo che non c'entra tanto, un po' come il pezzo che abbiamo iniziato, ma questo lo sentirete più vostro. Non c'entra tantissimo nel senso di questa puntata, ma mi mette allegria ed è ricco di donne e uomini che vivono momenti semplici e rispecchiano una società tante volte dimenticata da noi ragazzi, quella nella quale la nostra coscienza egualitaria e orizzontale potrebbe trasformarla nell'unica società possibile. Quindi Eugenio Finardi con Passerà e un immenso Ernesto Rico nel video che dovete assolutamente vedere. That's all for now, see you guys. Domani arriverà l'estate. Se dando tempo al tempo noi diamo pane al pane, che domani si va tutti al mare. Guarda la strega, se ne frega, non si spezza ma si piega, grandi sconti alla bottega. Tra il bene e il male un abissale, stagno pieno di morale, sedie senza lo schienale. Prestami l'infinito e un'ora, il vento arriva e soffierà e cambierà. E la notte passerà, la chiameremo libertà, e poi domani arriverà l'estate. Per famiglie e vicinato, già che c'ero t'ho pensato, t'ho chiamato e t'ho invitato, festeggiamo che il bastardo ha preso il treno e se n'è andato. Giovanotti ben pensanti, senza arte né mestiere, nelle notti scostumata a darla bere senza bere, la mattina troppo caldo sulla nuca e nel sedere. e con la banda in centro faremo un carnevale, miliardi di colori e suoni e niente che non va. Domani si va tutti al mare.